Piazza 24, i gialli della storia. Ovunque vai nel mondo, se dici Steinway, tutti sanno di che cosa stai parlando. Cominciarono da zero a costruire i migliori pianoforti. Nessun altro artigiano era capace di tanto. Costruire i migliori pianoforti del mondo. Questo è quello che voleva il fondatore. Gli Steinway erano la Microsoft del tempo, la Google. Era molto determinato a creare un'azienda eccellente, ad avere successo negli Stati Uniti, a dare ai suoi figli una vita migliore di quella che aveva avuto lui. Questa è una storia di riscatto e passione, un ragazzo di origini umilissime che rimane solo al mondo. Si innamora della musica nella bottega di un costruttore d'organi e inizia a nutrire un'ossessione, costruire il miglior pianoforte del mondo. È il sogno di Henry Steinway. Un sogno che si realizzerà a New York, dove quel ragazzo emigrerà e dove insieme alla sua famiglia cambierà per sempre il pianoforte moderno. E nel mitico seminterrato nella 57esima strada, per quasi un secolo passano i più grandi musicisti del mondo, da Horowitz a Gershwin, da Toscanini a Stravinsky, che vengono a scegliersi lo strumento più adatto a loro e alla loro sensibilità. Oggi a Mix 24 racconteremo la sua storia, la storia di un uomo che farà sognare tutto il mondo con le sue suggestioni. 5 giugno 1812. Zacharias Steinweg, carbonaio, e i suoi 4 figli vengono colti di sorpresa da un violento temporale in una foresta vicino a Sisen, sui Monti Harz. L'unico che sopravvive alla terribile tempesta di fulmini è il 15enne Eirik. Suo padre e i suoi 3 fratelli, invece, muoiono. A 15 anni, Eirik Steinweg resta senza famiglia. Anni prima aveva già perso la madre e alcuni fratelli più grandi in fuga da Napoleone. All'inizio del 1815 si arruola nell'esercito a Brunswick, determinato a cacciare i francesi dal suo paese. Solo pochi mesi dopo ha un'opportunità. Partecipa alla battaglia di Waterloo. È lui a suonare con il corno l'attacco a Napoleone. Le truppe francesi vengono sconfitte. Napoleone trascorrerà gli anni che gli restano nell'esilio di Sant'Elena. Goslar, 1819. Dopo 4 anni di servizio militare, Eirik diventa apprendista di un costruttore di organi sui Monti Harz. Cambia le canne degli organi delle chiese e si appassiona alle note, alle ottave e agli accordi. Nella Germania del 1835, ogni artigiano deve appartenere a una corporazione. Poiché Eirik Steinweg non ha il diploma di maestro costruttore di strumenti, ufficialmente non può esercitare questa professione. Ma gli anni passati da apprendista costruttore d'organi hanno lasciato il segno. E sebbene al momento stia facendo pratica come ebanista a Sisen, Steinweg ha capito che la sua strada è un'altra. Oltre che abilità nel lavorare il legno con strumenti speciali, costruire uno strumento dotato di tastiera richiede una profonda conoscenza della musica, della matematica e della fisica. Per l'impia allacciatura, Steinweg usa il legno di abete, ma anche il mogano cubano. Decide di iniziare a costruire fortepiani. Intanto però corteggia anche una donna di cui è follemente innamorato, Juliane Timmer, la figlia di un guantaio. Per il matrimonio, Steinweg vuole sbalordire la sua amata con un dono molto insolito. Regala a sua moglie un pianoforte quadrato, appositamente creato da lui. Per il suo dottorato in storia, Cornelia Pullman ha studiato la vita degli immigrati tedeschi dal Ducato di Brunswick in America nel XIX secolo. In particolare, la storia della vita di Eirik Steinweg. Per Eirik Engelhard Steinweg, sposare Juliane Timmer significò prestigio sociale, raggiungere il successo finanziario. Grazie al miglioramento della sua situazione economica, Steinweg poté acquistare la cittadinanza di Sisen, un requisito necessario per avviare un laboratorio per costruire pianoforti. Steinweg può finalmente cominciare a lavorare e il suo obiettivo non è costruire buoni pianoforti. Lui vuole costruire i migliori pianoforti del mondo. Con meticolosità e passione realizza il suo primo pianoforte a coda che vende al duca di Brunswick per 300 marchi. Il cosiddetto kitchen piano di Steinweg, diventato famoso in tutto il mondo, è oggi esposto a New York. Chris Main arriva a New York. È il primo costruttore di strumenti al mondo ad avere avuto il permesso di riprodurre il leggendario strumento di Steinway. L'ultimo erede a dirigere l'azienda di famiglia è Henry Ziegler Steinway. Allora, signor Chris Main, questo è il più antico e famoso pianoforte a coda costruito a Seesen da Heinrich Engelhard Steinweg. Questo è il suo marchio. È così prezioso che non oso toccarlo. Quello che lei intende fare è davvero meraviglioso. Ora forse potremo scoprire come suonava. Con la sua ricostruzione del primissimo pianoforte a coda Steinway, Chris Main ha realizzato un sogno accarezzato a lungo. Il problema di questo pianoforte era che la cassa armonica era completamente chiusa, come negli strumenti molto antichi. C'erano naturalmente delle corde nella tavola armonica e potevamo provare a fare qualcosa, ma per avere una copia reale avevamo bisogno di conoscere ogni dettaglio della parte interna dello strumento. Naturalmente conoscevo già quella di altri strumenti dello stesso periodo e feci uno studio completo al riguardo. Tuttavia, per sapere esattamente come era fatto l'interno di quello che avevamo davanti, dovevamo ricorrere ai raggi X. Dobbiamo vedere tutto quello che c'è all'interno dello strumento. Dopo costosi preparativi, l'avventura di Chris Main può iniziare. La costruzione del leggendario kitchen piano. Impiega circa 2000 ore per riprodurre questo straordinario pianoforte a coda. Oltre a tanta abilità e amore per il dettaglio. Ma come ha fatto Steinweg a trasformare la sua attività artigianale in un'industria famosa in tutto il mondo? Per soddisfare la crescente domanda, Heinrich Steinweg decide di insegnare il mestiere ai figli. Già a 5 anni si danno da fare in laboratorio. Con l'aiuto dei figli, Steinweg riesce a produrre da 10 a 12 pianoforti all'anno. Nel 1848 l'Europa è attraversata dalle rivoluzioni. I moti di marzo vengono stroncati e repressi in un bagno di sangue. Dopo il fallimento della rivoluzione, Karl, il secondogenito di Steinweg, è costretto a lasciare la Germania. Passando per la Svizzera, Parigi e Londra, il giovane Steinweg arriva a New York ai primi di marzo 1849. Appena sbarcato, si mette in contatto con i discendenti di altri immigrati tedeschi. Con il loro aiuto inizia ad ambientarsi. Subito pensa alla possibilità di trasferire l'azienda di famiglia nel nuovo mondo. 6 settimane dopo il suo arrivo, Karl scrive per la prima volta ai suoi genitori dal suo esilio americano. Ai miei amati genitori, fratelli e sorelle. New York è l'Eldorado degli strumenti a tastiera. Ho subito trovato lavoro presso un costruttore di pianoforti. È un impiego molto ben pagato. La crescita di benessere negli Stati Uniti promette grandi opportunità per i costruttori di pianoforti. Non ci crederete, ma in quasi tutte le case ce n'è uno. Qui la musica tra le mura domestiche fa parte della vita quotidiana. Per gli Steinweg finalmente un segno di vita dal loro amato figlio. Siate coraggiosi e non esitate a lungo. Frustrati dalle ingerenze statali e dai dazi doganali poco favorevoli al commercio, migliaia di tedeschi lasciano la Germania per gli Stati Uniti. Il 28 maggio 1850, gli Steinweg si imbarcano sull'Elenesloman ad Amburgo, il primo transatlantico tedesco. Dopo un mese esatto sbarcano a New York. Theodor, il figlio maggiore, rimane in Germania alla guida dell'azienda di famiglia. La loro nuova casa è sicuramente molto diversa da quella che hanno lasciato in Germania. Lì erano ricchi, qui devono ripartire da zero. Ma il loro capitale deve essere impiegato solo per avviare l'attività lavorativa. 3 anni dopo il loro arrivo, la situazione economica a New York è drammaticamente peggiorata. Sono giorni neri. La famiglia raccomanda con insistenza al figlio maggiore di non trasferirsi in America. I fratelli sono disoccupati e Heinrich Steinweg fatica a guadagnarsi da vivere come dipendente di una fabbrica di pianoforti. Ma anche in questi tempi di ristrettezze, Heinrich può fare affidamento sulle sue principali doti, quelle che lo hanno sempre aiutato a superare le difficoltà. Un'acuta intelligenza e un'immensa forza di volontà. A 55 anni, Steinweg è un uomo che ha lottato tanto e ha ottenuto tanto. Arrendersi è fuori questione. In un'epoca di grave crisi economica, Heinrich decide di mettersi in proprio insieme ai suoi figli. Non hanno molto da perdere. E se le cose dovessero migliorare, le potenzialità sarebbero enormi. Amici imprenditori gli consigliano di americanizzare il loro cognome. E così Steinweg diventa Steinway. Un modesto attico a Varick Street, la prima sede dell'azienda. Nel marzo 1853, con un contratto sulla parola e un capitale di investimento di $6,000, nasce la nuova azienda di famiglia. Da allora la crescita della società è veloce e progressiva, come spiega la storica Cornelia Pullman Andy Ombakway, vicepresidente della Steinway. Il grande passo avanti venne fatto nel 1855 durante una fiera al Crystal Palace. Il Crystal Palace era stato costruito appositamente per questa fiera e durante questa esposizione i pianoforti Steinway ricevettero un premio. E da quel momento in poi il volume d'affari aumentò rapidamente. Nel 1854 produssero poco più di 70 pianoforti all'anno, nel 1856 200 e nel 1857 oltre 400 pianoforti, cioè il doppio. Quello che mi sorprende è che nei 10 anni, dal 1853 al 1863, quando aprirono quell'enorme fabbrica a Park Avenue, cominciarono da zero a costruire i migliori pianoforti. Nessun altro artigiano era capace di tanto. Erano un po' la Microsoft, la Google del tempo. E questo non era dovuto solo al design e alla lavorazione, entrambi eccellenti. Gli Steinway erano ottimi uomini d'affari, ottimi venditori, molto abili. E furono capaci di unire insieme tutte queste qualità. Ma com'è oggi la situazione dell'industria Steinway? Ne parlano l'attuale presidente Thomas Currer e il vicepresidente e il pianista Lang Lang. Nel 1972, circa 120 anni dopo la sua fondazione a New York, la ditta Steinway & Sons viene venduta al network americano CBS, Columbia Broadcasting System. Nel 1985 la CBS rivende la Steinway & Sons a 3 investitori americani. Oggi la società appartiene alla holding americana Steinway Musical Properties. Dal 2007 Thomas Currer è il primo tedesco a guidare di nuovo la compagnia. Ha lavorato 20 anni per la Steinway ed è determinato a continuare la tradizione aziendale. Tutti i miei predecessori, non molti, erano americani. L'unico tedesco è stato Heinrich Engelhard Steinweg. Abbiamo la stessa filosofia, o come si dice oggi, la stessa mission: costruire i migliori pianoforti del mondo. Questo è quello che voleva il fondatore e questo è quello che intendiamo fare anche noi. L'identificazione dei dipendenti con il prodotto è enorme. E questo, lo confesso, per noi è una piacevole sorpresa. È come se tutti, indistintamente, si sentissero i pronipoti di Heinrich Engelhard Steinweg. Ogni pianoforte a coda è fatto a mano e consta di 12.000 singoli elementi. Sebbene i progetti e i materiali siano sempre gli stessi, ogni strumento ha un suono diverso dall'altro. I pianoforti a coda Steinway hanno tutti la propria, unica personalità sonora. Sono assolutamente convinto che questo strumento abbia qualcosa di speciale. Per questo ne produciamo una quantità relativamente bassa. Le fabbriche sono 2, una a New York e una ad Amburgo. E produciamo soltanto 2.000 strumenti all'anno. È un'opera di altissimo artigianato, fatta a mano, con processi automatici ridotti al minimo. Ecco perché ogni pianoforte ha la sua personalità. Non è certamente una lavorazione in serie. L'uso di materiali lavorati dall'uomo è primario. Il legno, per esempio. Sono convinto che ha un'anima. Ho avuto il grande privilegio di visitare entrambe le fabbriche Steinway, sia a New York che ad Amburgo. Il personale dipendente è di una professionalità unica, fa un lavoro di precisione. È straordinario, senza pari, davvero. Quando iniziano a lavorare è come se stessero mettendo le mani su un orologio svizzero. Tutto è così accurato, così preciso, come se stessero facendo un mandolino, uno strumento di piccole dimensioni. Chi potrebbe mai immaginare che questa fabbrica produce pianoforti a coda, i migliori pianoforti del mondo? E questo lavoro di precisione consente di ottenere un suono sublime, unico. Gli Steinway hanno registrato centinaia di brevetti, alcuni come telaio di Ghisa hanno rivoluzionato l'industria dei pianoforti. Harry capisce quasi subito che lui e i suoi figli hanno imboccato la strada giusta e i successi gli danno ragione. Sta veramente costruendo i migliori pianoforti del mondo, ma ha bisogno di farlo sapere a tutti. E a un certo punto ha un'idea geniale, capisce che i migliori pianisti del mondo sono il mezzo pubblicitario più efficace e quindi riesce ad avere da loro un contratto di esclusiva. Da quel momento suoneranno soltanto sui suoi pianoforti. Sarà il modo per consacrare un successo ancora più solido e indiscutibile, ancora Andy Orbachevsky. Per Henry è il passaporto per l'alta società di New York, anche perché insieme ai suoi figli ormai è riuscito ad accumulare una ricchezza considerevole. Sono tante le persone che hanno ottime idee in testa, ma raramente riescono a tradurle in realtà. Per Steinway, la capacità di trasformare quella visione in realtà andava di pari passo con la sua tenacia. Lavorava incessantemente, finché non riusciva a superare gli ostacoli che, come tutti, sicuramente avrà incontrato nella vita. La stessa voglia di sfondare e di raggiungere i propri obiettivi la ritroviamo nei suoi figli, specialmente in William Steinway, che portò l'azienda a livello più elevato. A 67 anni, Henry Steinway ha realizzato tutti i suoi sogni. Orgoglio, ricchezza, fama, la sua sembra la felicità perfetta. Ma la felicità perfetta, naturalmente, non esiste. Solo pochi mesi dopo, l'11 marzo 1865, suo figlio Henry Jr. muore di tubercolosi a soli 35 anni. È la prima tragedia che si abbatte sugli Steinway. Ma non è finita. Un'altra terribile notizia lo aspetta al suo rientro a casa. Steinway viene informato che anche il secondogenito, Carl, è morto. Mentre si trovava in Germania, da suo fratello si è ammalato di tifo. Le redini della Steinway & Sons passano ora nelle mani di William. Il giovane scrive a suo fratello Theodore in Germania, chiedendogli di riunirsi alla famiglia a New York. William sa che Theodore non vorrebbe trasferirsi in America. Significherebbe abbandonare la sua azienda in Germania, ormai ben avviata, ma la famiglia è al primo posto. 3 settimane dopo, Theodore lo raggiunge. Il destino rinsalda ancor più il legame tra i due fratelli. La tragedia si tramuta in fortuna. William e Theodore formano un team perfetto alla guida della Steinway. Theodore inventa innovative soluzioni tecniche per i meccanismi dei pianoforti a coda e l'esperto William sa come venderli. Un'ascesa inarrestabile. Nel 1870, Steinway fa costruire a Queens una villa simile a una reggia. La sontuosa dimora diventa il punto d'incontro per tutta la famiglia che nel frattempo si è molto ingrandita. Mentre gli Steinway si stabiliscono a Queens, a Manhattan i lavoratori sono in rivolta. Già dai disordini razziali del 1863 la città era una polveriera pronta ad esplodere. Ora però gli scioperi bloccano la produzione dei pianoforti. Per togliere gli operai dal caos sociale di Manhattan, Steinway fa costruire lo Steinway Village, la città per i suoi dipendenti. C'è anche l'ufficio postale, una piscina pubblica e i parchi, dove i dipendenti possono rilassarsi nel weekend. Gli Steinway finanziano la scuola della città. Sovvenzionano anche lezioni di musica e di tedesco. All'interno della fabbrica il tedesco è ancora la lingua principale. Ma alla famiglia Steinway il successo americano non basta. Realizzano i migliori pianoforti del mondo e tutto il mondo deve essere il mercato. E l'Europa è il primo mercato da conquistare. Amburgo, 1880. I fratelli William e Theodor Steinway aprono una seconda fabbrica. Hanno deciso di conquistare il mercato europeo. A capo della nuova azienda di pianoforti di Amburgo c'è Theodor Steinway, che ha deciso di tornare in Germania. Da allora la Steinway & Sons ha diviso il mercato mondiale in due. New York fornisce le due Americhe e Amburgo il resto del mondo. Siamo un'unica società, ma produciamo in due impianti, uno a New York e uno ad Amburgo in Germania. E ci sono sottili differenze. Certamente poche in termini di rifinitura, l'aspetto molto lucido contro quello satinato. Ma ci sono anche alcune differenze sostanziali rispetto al timbro e alla sonorità. Dalla nostra prospettiva di azienda internazionale difendiamo questa scelta. Ci sono artisti in Europa che preferiscono lo strumento fatto a New York e viceversa ci sono artisti americani che preferiscono lo strumento fatto ad Amburgo. Per noi è vantaggioso offrire questa scelta e non cambieremo atteggiamento in futuro. Dopo 74 anni, nel 1871, un singolare percorso di vita si chiude. Un viaggio che ha portato l'orfano dei Monti Arts sulle vette più alte della musica. Il suo coraggio, la sua determinazione, la salvaguardia dell'unità della famiglia sono stati determinanti. Grazie ai suoi pianoforti, Henry Steinway è diventato immortale. La sua morte segna la nascita di una leggenda. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.